Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentornati anche nel mondo della scuola. Con il 2014 riprendiamo il nostro percorso dopo le vacanze di Natale. Mirko Cavallini studio e di Dai c'è la parte tecnica. Risalutiamo e auguriamo il buon anno e la buona ripresa anche a Don Edmondo Lanciarotta. Grazie reciprocamente anche a voi per il servizio che prestate. Auguri a tutti anche coloro che ci ascoltano. È un anno che segna una data importante che già avevamo anticipato più volte nel corso dei mesi precedenti. Sabato 10 maggio 2014, Roma, Piazza San Pietro, l'incontro di tutta la scuola con Papa Francesco. È un evento straordinario, è un evento nuovo, è un evento che la Conferenza Episcopale Italiana ha lanciato e si sta preparando per viverlo nel migliore dei modi. È un evento questo che nasce all'interno del decennio dell'invito orientamenti pastorali centrato sull'educazione, per far emergere che un ambiente, una istituzione, una comunità, una realtà, un momento educativo particolare è la scuola. Ed è un momento questo, ripeto, all'interno del decennio, ed è anche una tappa significativa, vuole essere, speriamo che lo sia, anche verso il grande convegno ecclesiale della Chiesa italiana fissato per il 2015 a Firenze, dove il tema è umanesimo e fede. E quindi anche questo nostro incontro del 10 di maggio, la scuola come realtà educativa, come istituzione, come comunità, che assieme alla famiglia e assieme alla comunità cristiana e a tutte le altre iniziative e realtà educative, dà il suo contributo per costruire un nuovo umanesimo. Lo stesso Papa, quando era cardinale, 6 anni fa ormai, in un messaggio alle comunità educative, diceva: educare è di per sé un atto di speranza, non solo perché si educa per costruire un futuro, scommettendo su di esso, ma perché il fatto stesso di educare è attraversato da una prospettiva di speranza, altrimenti uno non ci metterebbe nessun impegno. Per qual motivo allora noi dobbiamo impegnarci, e perché è bello anche educare nonostante le sfide e nonostante le difficoltà? In un mondo come questo, tante volte ce lo siamo detti, in cui anche l'educare è messo in grande difficoltà, molti anche sostengono la inadeguatezza, la impossibilità anche di educare. Ecco, a partire da questo annuncio di speranza, noi come Chiesa siamo invitati a dare il nostro contributo perché anche la scuola possa essere un luogo di educazione, un luogo di speranza per le giovani generazioni. Come si svolgerà questa giornata di sabato 10, per quello che sappiamo? Ancora, ma dovrebbe essere abbastanza... Ancora noi non sappiamo la organizzazione precisa. Avremo appunto nei prossimi giorni a Roma, a cui parteciperò anch'io, dove ci saranno date delle indicazioni più precise, dove cercheremo anche di elaborare una prospettiva che sia significativa, che possa essere accogliente da una parte di tutto il mondo della scuola e anche un'occasione per sentire che cosa Papa Francesco ci dirà. Quindi possiamo dire che al momento non sappiamo appunto l'organizzazione, sarà presentata appunto prossimamente, nei prossimi giorni a Roma. E poi ci sarà a febbraio un altro incontro di organizzazione con tutte le realtà impegnate a creare questo evento. L'invito che già avevamo fatto prima di Natale è quello di iscriversi prima possibile, ufficialmente ci sono ancora alcuni giorni fino al 15 gennaio per partecipare o nella modalità di andata e ritorno in mattinata, oppure partendo tornando la domenica invece che il sabato sera. Sì, abbiamo dato una urgenza, però c'è lo spazio anche entro la fine di gennaio, un'urgenza per avere una preiscrizione, perché noi qui del nord-est abbiamo un'altra grande manifestazione proprio lo stesso giorno, il raduno degli alpini a Pordenone. E allora, senza metterci in contrapposizione con gli alpini, ci mancherebbe, ma anche loro forse avranno bisogno dei cosiddetti pullman. Allora non vorremmo che persone che desiderebbero anche partecipare a Roma non avessero poi la possibilità di partecipare perché mancano i pullman. E quindi ecco il motivo di questa urgenza di una preiscrizione per poter fissare, bloccare, possiamo dire, i pullman e poi fare in modo che l'organizzazione possa essere conseguenziale. Perché il desiderio dei nostri vescovi, il desiderio appunto delle nostre comunità cristiane è che ecco, questo evento è sia importante, la scuola abbracciata da Papa Francesco. L'avevamo già detto, ma lo ribadiamo, chi sono invitati a questo incontro di sabato 10 maggio? Ecco, sono invitati tutti quelli che vivono il mondo della scuola. Quando diciamo scuola, diciamo studenti, diciamo docenti, diciamo dirigenti, genitori, personale scolastico educativo, le famiglie, i giovani, ecco, e tutti quelli che hanno a cuore questa realtà educativa, scolastica, istituzione scolastica, sia nella forma delle scuole statali, ecco, pubbliche, sia nella forma delle scuole paritarie, sempre pubbliche, sia anche i centri di formazione professionale, ecco, praticamente tutto quello che noi chiamiamo scuola, che per un termine tecnico dovremmo dire il sistema di educazione, il sistema educativo di istruzione di formazione professionale. E poi, diciamo, le persone che hanno a cuore questa istituzione e che la promuovono. La Chiesa per la scuola è il titolo, che era già il titolo dell'incontro della quarta conferenza sulla scuola e sulla formazione dello scorso novembre. È uno slogan che viene ripreso perché appunto la Chiesa ha a cuore la scuola tutta, anche se poi magari c'è dall'altra parte, diciamo, alcune contrapposizioni, frutto però di incomprensioni culturali, credo. Sì, anche da questi microfoni tante volte abbiamo ribadito queste alcune pregiudizi e queste forme ideologiche di approcciarsi alla realtà scuola. Ecco, vorremmo che questo incontro, ecco, non dico risolvesse queste, magari fosse, ma contribuisse a creare un clima di dialogo, contribuisse a fare in modo che non ci siano visioni preconcette o pregiudiziali. Certamente, purtroppo, nella storia ci sono queste visioni che la Chiesa, quando si interessa della scuola, si interessa solamente delle proprie scuole. Questo è sbagliato. Ecco, questo incontro vorrebbe anche dimostrare l'interesse e la cura e la sollecitazione pastorale per tutto il mondo della scuola e quindi per tutte quante le scuole. Certamente all'interno di esse poi ci sono delle urgenze, ci sono delle emergenze. Allora non dobbiamo fare delle urgenze, delle emergenze i punti solamente di priorità che scartino le altre realtà, ma punti su cui lavorare per creare un sistema, ecco, secondo anche la legislazione italiana. Breve pausa e poi ancora insieme su questo tema. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Soffio, se alzi il braccio puoi toccarla, ti guardo immobile e dà un sorriso da bastarda, e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé mentre io cerco te. E mi ero affezionata di esserti amica, mi sembra assurdo solo a pensarci, cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, e lo capisco dal tono diverso di voce con cui mi dici stasera da fare, non mi aspettare, e stami a partire da ieri, siamo due strani. Cerchio, ci vuole poco a disegnarla, ha un'aria nobile e un cielo intero ad ammirarla, e tra le stelle i mille sogni della gente che pensa a vivere mentre io penso a te, e mi ero affezionata. di esserti amica, una tua amica, mi sembra assurdo solo a pensarci, cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, e lo capisco dal tono diverso di voce, con cui mi dici stasera da fare, non mi aspettare, e stammi a partire da lei, siamo due strani. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Seconda parte di questa puntata dal mondo della scuola, nel percorso che prosegue dopo le vacanze di Natale. Con Don Edmondo Lanciarotta stiamo ripresentando, perché ne abbiamo già parlato, il prossimo incontro con Papa Francesco, Piazza San Pietro, sabato 10 maggio, la Chiesa per la Scuola. Un percorso nazionale, un'iniziativa nazionale, ma che credo proprio dai nostri territori, dalle nostre comunità, abbia avuto negli ultimi mesi una spinta notevole. Esattamente, e questo possiamo dire anche grazie alla Commissione Scuola Educazione Università della CET, che in questi ultimi anni ha promosso ben 4 conferenze sulla scuola. La prima, ecco, cercando di presentare il quadro giuridico istituzionale della scuola, ecco, nel 2009, la seconda nel 2011 presentando i temi della sussidiarietà e della parità. La terza a Padova, ecco, la specificità della scuola paritaria, e la quarta che abbiamo vissuto a novembre a Verona con la presidenza appunto del Patriarca di Venezia e del presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto, la Chiesa per la scuola nella comunità, ecco, cercando di far capire che la scuola fa parte della comunità umana ed è espressione della comunità umana, quindi anche comunità sociale, quindi anche comunità politica, e poi invitando tutti i soggetti sociali, politici, sindacati e opinione pubblica a prendersi a cuore di questa realtà della scuola, tutta la scuola, nella comunità. Nel misura in cui c'è questa consapevolezza, allora anche le difficoltà o le grandi sfide, le grandi così emergenze, tipo la scuola paritaria molto presente nel nostro territorio, è vista non come un privilegio ma come un bene offerto a tutti. Quindi questo è stato il tema della quarta conferenza, che aiuta e promuove e prepara questa grande manifestazione di popolo di Roma 10 maggio. Lo stesso Patriarca aveva detto in occasione di quell'incontro: solo una società che sa investire risorse economiche e umane nella formazione e nell'innovazione in ambito scolastico può prepararsi a un futuro in cui la persona non venga subordinata alle scelte economiche e finanziarie, cioè la persona al centro. Esattamente, anche su questo aspetto qui, se avete appunto ascoltato gli ultimi dati Istat, parlano della grande dispersione scolastica, ecco, del 17% a livello italiano, quindi altissimo, totalmente lontana dal 10% dei trattati della Unione Europea. Ebbene, noi possiamo dire che a livello italiano c'è questo, però nel nostro Veneto la dispersione scolastica è sotto il 10%, è il 3-4%, il che vuol dire che il nostro sistema, ecco, è importante, è buono ed è fecondo ed è anche efficace. Ecco, purtroppo in questi ultimi anni lo stiamo smantellando. Allora, E questo è sostenuto grazie anche alla scuola paritaria e grazie anche ai centri di formazione professionale. Allora noi vorremmo, e abbiamo voluto in quella quarta conferenza dello scorso novembre, presentare questa specificità e fare in modo che per motivi puramente economici non venga smantellato, perché c'è una contraddizione. Ecco, si parla a livello italiano di questa 17% di dispersione e nel nostro Veneto abbiamo smantellato e adesso stiamo vedendo che c'è una erosione, il che vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Noi vorremmo che questo invece continuasse e diventasse anche simbolico e anche trainante per le altre regioni. E quindi su questo aspetto qui possiamo dire, come hai detto bene tu prima, che la nostra commissione è attenta a questo mondo e promuove e fare in modo anche che questo incontro non sia solamente un incontro celebrativo, ma un incontro in cui la comunità cristiana, appunto, nelle sue manifestazioni politiche, assuma le proprie responsabilità. Hai parlato di sistema scuola e certamente è importante la struttura, penso alle strutture ministeriali, a quelle organizzative, al personale non docente, ai docenti, agli alunni, ma nel sistema scuola c'è la famiglia, c'è più in generale tutta la società. Appunto, e questo la scuola non vuole fagocitare tutto il sistema, ma vuole mettersi in dialogo in primis con la famiglia e poi con le altre realtà. Tante volte ci siamo detti che è la scuola della comunità e nella comunità, c'è stato anche lo slogan del nostro incontro di Verona. E su questo aspetto qui, ecco, dobbiamo anche fare in modo che dalle parole si passano ai fatti, o meglio, i fatti che hanno costituito il nostro tessuto veneto con il principio della sussidiarietà, che ognuno si prendeva appunto le proprie responsabilità e veniva riconosciuto questa azione, ecco, questo poi passi anche a un'azione legislativa, un'azione dal punto di vista anche normativo. Ecco, e quindi non ci si fermi solamente a un dettame, per esempio, del patto di stabilità che ha i suoi vincoli, ma creare quelle condizioni affinché attraverso il patto di stabilità vengano offerte quei contributi, quei finanziamenti, quell'azione anche politica di assicurazione affinché tutta la scuola, non una parte sola, ma tutta la scuola sia messa nelle condizioni. Purtroppo constatiamo che ci sono pochi mezzi e pochi anche sussidi finanziari su questo mondo. Una società che non investe nella scuola, ecco, non investe nel proprio futuro. Certamente ci sono da tenere presenti anche di risparmiare e di fare anche la verifica. Noi possiamo dire con tutta la nostra anche umiltà, ecco, che il nostro sistema è attento a questo, non ci sono grandi sprechi. E dal punto di vista anche delle scuole paritarie, noi abbiamo dimostrato che facciamo risparmiare tanti soldi allo Stato. Ecco, e allora vediamo che ci sono delle contraddizioni e noi vorremmo, in termini dialogici, con serenità, ecco, scioglierli questi proprio per superare queste barriere ideologiche e contribuire a fare in modo che la scuola svolga ancora una volta il suo compito. Ultima pausa e poi le proposte e le iniziative anche a livello locale. Dal mondo della scuola. Having the rain. Ancora insieme per questa puntata dal mondo della scuola con Don Edmondo Lanciarotta. Stiamo introducendo i temi del prossimo incontro di maggio, mancano 4 mesi, ma è una data importante, sabato 10, l'incontro con Papa Francesco di tutta la scuola italiana, la Chiesa per la scuola. C'è tempo ancora alcuni giorni per iscriversi, per partecipare, fatti riferimento ai vostri uffici diocesani, c'è la possibilità di andare e tornare in giornata in quel sabato 10, oppure di pernottare a Roma, di tornare con calma nel corso della domenica. Un'iniziativa, dicevamo, che ha molte radici a nord-est, per la spinta che è stata data anche a livello nazionale nell'aprire e nel continuare questo dibattito. Speriamo che il volano e la fama di Papa Francesco aiuti ulteriormente ad allargarlo. Iniziative locali, dicevamo, l'organizzazione per il viaggio è affidata, per quanto riguarda Treviso, Don Edmondo, all'ufficio pellegrinaggi, che è anche più esperto, sì, no? Sì. Di pullman, di cose. I prezzi vanno dai 65 ai 155 euro, così diamo anche un orientamento in questi tempi di spesa. Gennaio è già un mese impegnativo per le spese. Altri incontri che sono in programma? Ecco, a livello del Triveneto i vescovi sono appunto attenti a questo e proprio in questi giorni si radunano, e ci sarà anche appunto una particolare attenzione, un punto all'ordine del giorno appunto per vedere e monitorare la situazione a questo punto, come le singole diocesi si stanno organizzando e si stanno preparando. Poi in questo mese di gennaio avremo anche degli incontri con la pastorale familiare, la pastorale anche giovanile sempre del Triveneto, per consolidare maggiormente la preparazione e poi fare in modo che ogni diocesi, attraverso il proprio ufficio, attraverso le aggregazioni delle scuole cattoliche, attraverso le organizzazioni dei laici impegnati nel mondo della scuola, che si stanno impegnando appunto a raccogliere anche le adesioni, ecco, fare in modo che ci sia anche una maggiore anche partecipazione. Attorno a questo, ecco, diventa anche un'occasione questa per fare in modo che alcune realtà, i dirigenti scolastici, i genitori, gli studenti possono anche essere contattati, possono anche essere incontrati per promuovere anche una maggiore sensibilizzazione. Quindi ci saranno anche delle iniziative che i singoli diocesi con i vescovi, i vicari generali, ecco, incontrano i dirigenti scolastici, presenteranno l'iniziativa in maniera tale da preparare anche l'opinione pubblica e anche l'ambiente, ecco, di questo evento. A livello diocesano, ecco, per quanto riguarda la diocesi di Treviso, ecco, sono in programma degli incontri qui sempre in gennaio per monitorare la situazione e per sostenere la partecipazione. Una partecipazione che ovviamente, dicevamo, è rivolta a tutti coloro che si occupano di scuola, per mestiere o per passione. Gli studenti, penso soprattutto a quelli un po' più grandi, è previsto anche un loro ruolo, perché magari sono quelli che nel dibattito cominciano ad avere anche un po' più coscienza civile, diciamo. Sì, senz'altro, lì abbiamo però dei vincoli di carattere normativo. Purtroppo anche una modalità che avevamo pensato, ma gli organizzatori iniziali si sono dimenticati per quanto riguarda la data, oppure è venuto fuori che dal punto di vista normativo non è possibile che i viaggi di istruzione siano fatti, perché il 10 di maggio praticamente sono data che chiusa, non si possono più fare viaggi di istruzione. Perché siamo nell'ultimo periodo di scuola e quindi sotto questo aspetto qui vincoli. L'escamotage potrebbe essere che attraverso altre iniziative singoli docenti e anche singoli studenti possano in qualche modo aderire, chiedendo una giustificazione. Certo. Una giustificazione però una volta che è presentata questa situazione non ci sono grandi, diciamo, ostacoli assolutamente, però dal punto di vista giuridico istituzionale, ecco, questo è un vincolo, perché ha bloccato anche un'iniziativa specifica di una corale presenza degli studenti. Sabato 10 maggio, allora segnatevi la data, alcuni giorni ancora per iscriversi e partecipare a questa iniziativa. L'ultimo minuto e mezzo, un paio, li dedichiamo a un tuo parere sulla proposta del ministro Carrozza, emessa in questi giorni di vacanza, di proporre un sondaggio: come vorreste la scuola? È perché il ministro ha poche idee, i suoi collaboratori, o è davvero una forma di democrazia che può essere utile? Noi dobbiamo per fede presentare la bontà delle iniziative, e anche nella speranza. Ci auguriamo che questo contribuisca ad immettere maggiormente informazioni e conoscenze. Purtroppo possiamo dire che in questi ultimi anni abbiamo visto susseguirsi diversi ministri, i quali hanno fatto diverse iniziative, ma che non hanno trovato una omogeneità, una convergenza, una strategia, una visione. Ecco, non è che noi abbiamo bisogno di questo per capire e per conoscere ulteriormente il mondo della scuola. Certo, c'è sempre da conoscere, perché è una realtà sempre viva. Ecco, non vorrei che fosse solamente un'iniziativa di facciata. Speriamo, ripeto, che questo contribuisca a immettere, non per distrarre le questioni della scuola, ma per fare in modo che il mondo della scuola o i protagonisti dialoghino tra di loro. Ecco, a partire anche non solamente dalla base, ma anche dal vertice. Quindi il ministro o il ministero o chi per lui dovrebbe in qualche modo anche assumere e accogliere queste istanze. Speriamo che questo possa concorrere. Considerando che poi tutto il sistema va dalla scuola per l'infanzia fino all'università, in un mondo molto variegato come quello italiano, che è molto composito. E poi tener conto che noi abbiamo anche dei vincoli a livello europeo, e quindi noi non possiamo staccarci dalle visioni europee, siamo costretti. Ecco, però sotto questo aspetto qui abbiamo per esempio una euro che è abbastanza vincolante, però non abbiamo un sistema educativo, un euro scuola, non un sistema educativo che possa essere, pur avendo anche le possibilità anche di arrivare e giungere anche a una visione unitaria. Grazie Don Edmondo per essere stato con noi, torneremo a parlare di questo appuntamento del 10 maggio quanto prima. Grazie a voi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.